in primo piano. C'è ancora l'IRAP, che è la tassa, l'IRAP che guadagna molti titoli di prime pagine nella carrellata che voglio andare subito a iniziare dal Sole 24 Ore. Prove di sconto per l'IRAP, ripartono le prenotazioni per i rimborsi dal 2004. Questo è il titolo di apertura del Sole. Corriere della Sera, piccole imprese, IRAP leggera, il PDL, il Popolo della Libertà studia il piano. E così anche la Stampa, taglio IRAP, alt del Tesoro. Mentre la Repubblica punta sulle polemiche sulla giustizia dopo le frasi di Berlusconi a Ballarò, i giudici si ribellano, basta insulti. Università sia merito e rigore, questo è l'altro tema, l'approvazione della riforma dell'università, e così apre il Messaggero. Ma andiamo a vedere un po' all'interno dei giornali gli articoli, partendo proprio dall'aspetto economico. Come detto, il Sole apre sull'IRAP. A pagina 3, Dino Pesole, il Senato rilancia sull'IRAP. Che cosa sta succedendo? Sapete che si discute la finanziaria. Ebbene, l'iniziativa del relatore alla finanziaria, Maurizio Saia, è sostenuta da buona parte della maggioranza. Si lavora un emendamento alla finanziaria che preveda un taglio dell'IRAP per le piccole e medie imprese con meno di 50 addetti. L'agevolazione, pari a 2-3 miliardi, riguarderebbe la componente costo del lavoro e potrebbe essere legata al mantenimento dei lavori in azienda, dei lavoratori in azienda. Ovviamente lo stesso relatore, in alcune dichiarazioni a Dino Pesole, dice: la nostra per ora è un'ipotesi allo studio, in attesa che il governo chiarisca la sua posizione. Il nodo è costituito certo dalle coperture, attualmente non ci sono le risorse, poi si vedrà. Ma insomma, da qui si vuole partire. Anche perché il tema dell'IRAP è il tema che tiene ancora banco. Su Repubblica, in realtà, si legge a pagina 7: non ci sono i soldi per ridurre l'IRAP. Quello che ci sarebbe uno scontro tra il Ministero del Tesoro e il PDL, insomma, la tanto annosa querelle di questi giorni tra Tremonti e parte della maggioranza. Sulla cabina di regia, dice Repubblica, c'è anche tensione nel governo. A questo proposito, il Riformista intervista il ministro Claudio Scajola, il ministro dello sviluppo economico, un'intervista lunga che inizia in prima pagina, di Alessandro De Angelis, e si parte proprio dalla cabina di regia, questo nuovo organismo. Cos'è questa cabina di regia, ministro, alla quale è stato messo a presiedere Tremonti? È un comitato di coordinamento presieduto da Tremonti che il PDL ha deciso di istituire per condividere le scelte di politica economica prima che arrivino in Parlamento. Insomma, le scelte si fanno insieme. Significa, risponde Scajola, che la responsabilità della politica economica restano al presidente Berlusconi e a Tremonti, ma in uno spirito di maggiore collegialità con i gruppi parlamentari e il partito. E poi viene all'IRAP. La riduzione dell'IRAP fino alla sua abolizione è nel programma di governo, dice Scajola. Penso che dovremo fare nelle prossime settimane un'attenta ricognizione degli andamenti dei conti pubblici, vedere quanto renderà lo scudo fiscale, la lotta all'evasione fiscale. E poi alla fine avremo la possibilità di capire se sarà possibile avviare la riduzione dal 2010, magari attraverso la deducibilità del costo del lavoro e degli interessi passivi. Questo dice Scajola, che peraltro è protagonista di una vicenda che è ricordata in piccolo su Repubblica, invece in maniera più ampia sull'Unità. Vado a leggere a pagina 24 l'ultima del ministro Scajola: dice stronzo a un operaio. Che è successo? È successo a Napoli, riferisce l'Unità, all'ingresso dello stabilimento di Capo di Chino. Il ministro è stato affrontato ieri da un operaio, Paolo Esposito, che gli ha detto: altro che piano per salvarci, ci hanno tolto la mensa, di colpo siamo tornati indietro di 40 anni, ma tanto sappiamo già come finisce, voi politici vi arricchite e gli imprenditori pure. Al che Scajola si è avvicinato molto arrabbiato, secondo l'Unità dice, ha urlato: perché generalizza? È come se io dicessi che tutti i lavoratori sono stronzi come lei, però non lo dico. Questo è l'episodio, insomma, che ha visto protagonista ieri il ministro Scajola, riferito dall'Unità. Per rimanere in temi economici, c'è il grande tema dello scudo fiscale che vede davvero opposti, ecco, dire opposti forse due paesi, no, ma insomma la Svizzera è molto molto arrabbiata a livello istituzionale nei confronti dell'Italia. Vado ancora sul Sole 24 Ore, la Svizzera protesta una razzia nelle banche. Lo cito anche perché questo è il tema di cui si occuperà Oscar Giannino alle 9, in 9 in punto. Berna chiede chiarimenti all'ambasciatore italiano. Cosa è successo? Le autorità elvetiche si sono molto adombrate per quello che sta succedendo in Italia. Un'altra giornata di tensione, scrivono Lino Terlizzi e Carlo Marroni, tra Svizzera e Italia sul versante dello scudo fiscale, in particolare sui controlli a tappeto sulle filiali italiane delle banche elvetiche. Tensioni che sono sfociate soprattutto nella convocazione ufficiale dell'ambasciatore italiano da parte del governo di Berna. E dunque tensioni che rimangono tra i due paesi su questo provvedimento, che sicuramente fa discutere non solo a livello politico in Italia, ma anche appunto nei rapporti istituzionali con la Confederazione Elvetica. Per rimanere sempre in termini di economia, sui temi economici, vi voglio segnalare ciò che Sergio Rizzo scrive sul Corriere della Sera. Esce domani Sud, un sogno possibile. L'autore è Renato Brunetta, il ministro Brunetta. Il Sud, leggete il titolo, e dice Sergio Rizzo, tenetevi forte, serve un'altra spedizione dei mille. È il nuovo saggio di Brunetta che apre alle differenze di salario, che non sono chiamate per carità gabbie salariali, ma insomma così. E parlando del Sud, dei fallimenti della politica del Sud degli ultimi decenni, in questo saggio Brunetta dice ha fallito chiaramente la classe dirigente. Il Sud ha essenzialmente, prioritariamente bisogno di una nuova classe dirigente. Come attuare il rinnovamento? La qualità di un territorio la fa la sua gente, dice e si legge nel libro di Brunetta, auspicando un programma poliennale di investimenti anche e soprattutto in capitale umano che abbia come obiettivo il superamento del gap di legalità e fiducia nelle aree più a rischio del Mezzogiorno. Ed ecco qui, tenetevi forte, detto in altri termini, serve una nuova spedizione dei mille, un'invasione che dovrà puntare, come fece Garibaldi, sugli insorti locali, stavolta nella pubblica amministrazione. Mentre si cercheranno al nord funzionari e dirigenti pubblici esperti capaci da inviare al sud, dovrà scattare quella che Brunetta chiama l'operazione Rosolino Pilo, dal nome del patriota siciliano che nel 1860, a prezzo della vita, spianò la strada alla conquista di Palermo per la creazione al sud di una rete che finora non è esistita, fatta di dirigenti e funzionari preparati e onesti. Beh, certo, bisogna però leggere il saggio completo, ma già questa anticipazione fa capire che se ne discuterà certamente. L'altro grande tema che trovate sui giornali, l'apertura del Messaggero, è l'approvazione della riforma dell'università. Il Corriere la mette a pagina 2 e 3, nel mirino tra l'altro i mini Atenei, 37 corsi con un solo alunno, ora devono fondersi, dice il ministro Gelmini. In Italia esistono, pensate, 320 sedi universitarie distaccate, mini Atenei attivati in comuni diversi da quelli che ospita la sede principale dell'Ateneo. Per esempio, l'Università di Torino ha 9 sedi decentrate, il Politecnico di Torino 4, l'Università del Piemonte Orientale 9, quella di Genova 5, la Statale di Milano 10, il Politecnico di Milano 5 e così via, la Cattolica 18 addirittura. Da molto tempo sono nel mirino del ministro Gelmini e questo è uno degli aspetti della riforma. I nuovi Atenei, merito e rettori a termine, così titola il Sole 24 Ore, ed è... scusate, così titola il Corriere della Sera, è che avevo già in mano il Sole 24 Ore per passare a quello che è l'editoriale di Alberto Rioli in prima pagina, che mette insieme la riforma dell'università della Gelmini, ma non solo, un'iniziativa anche molto interessante di Confindustria. L'Italia non è un paese per giovani, scrive Rioli, non certifica i talenti, non valorizza il merito, non investe sulle nuove generazioni, spesso le narcotizza con un curriculum formativo scadente e poco esportabile e le obbliga a un'overdose di flessibilità, correttivo ineluttabile di un modello del lavoro troppo oneroso per un welfare diventato via via un lusso europeo. Insomma, per cambiare tutto questo va in questa direzione le proposte di Confindustria che verranno presentate il 17 novembre a Vicenza. e che prevedono, in maniera concreta, abolizione del valore legale del titolo di studio, migliore diffusione dei prestiti d'onore, rilancio della formazione tecnica, spesso trascurato segreto di molte delle produzioni made in Italy. Insomma, ridare dignità all'università è forse l'unico modo per restituire il senso del futuro alle generazioni di oggi. Ed è qui il legame, e questo anche lo scopo, scrive Orioli, della riforma Gelmini varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Più prudente, se non dire più scettico, è Tito Boeri oggi in prima pagina di Repubblica su questo tema. La riforma lumaca degli Atenei, scrive Boeri, ci è voluto un anno e mezzo perché il governo trovasse un accordo al suo interno su di un disegno di legge di riforma dell'università. Testo che finalmente approvato ieri, contiene molti principi condivisibili, scrive Boeri, ma anche una miriade di rinvii a decreti attuativi e a procedure ancora tutte da avviare. Ci vorranno così almeno 3 anni prima che la riforma trovi completa attuazione. Siamo a quel punto, saremo verso la fine della legislatura, quando il peso delle lobby accademiche si farà sentire di più. E dunque questo è il timore da parte di Boeri. Ripartiremo dopo il traffico con gli altri temi, trovate il conflitto, il contrasto sulla giustizia e poi ancora tanto c'è sul caso Marrazzo, inevitabile. In primo piano. In arrivo un nuovo lodo Ghedini, a Roma i processi delle alte cariche. Leggo da Repubblica, c'è, sapete, il contrasto, il conflitto, insomma, tra Berlusconi che ha attaccato ancora nuovamente i magistrati a Ballarò, i magistrati che dicono a questo punto lo sciopero sarà inevitabile se continua così. Ma questo è il tema, insomma, dopo la condanna in appello a Mills, sempre più in affanno, sempre più divisi, scrive Liana Milella su Repubblica. La Lega e i Finiani contro Ghedini. Che sta succedendo? Si sta cercando, secondo Repubblica, insomma, di trovare dei modi per evitare i processi a Berlusconi. E scrive, la nuova creatura, l'ultima creatura di Ghedini sarebbe la soluzione finale maturata negli ultimissimi giorni dopo un sondaggio con Lega e Finiani. Fare un reato, un lodo, per cui si dice per i reati commessi dalle alte cariche il tribunale competente è quello di Roma. Cioè toglierle, insomma, dal giudice naturale. Questo si legge anche sul Corriere della Sera, sfida sulla prescrizione breve. Si cerca di accorciare i tempi di prescrizione, ma pare da questo resoconto di Dino Martirano che soprattutto i Finiani e Giulia Bongiorno siano contrari, mentre rimane appunto questa possibilità, adombrata anche dal Corriere della Sera, di dirottare dal giudice naturale verso una sede giudiziaria, vale a dire Roma, più agevole per l'esercizio del diritto di difesa del Presidente del Consiglio, insomma delle istituzioni, i processi che riguardano appunto le istituzioni stesse. Il caso Marrazzo. Nel caso Marrazzo tiene banco il terrore letterale che si sarebbe impossessato del Parlamento. Perché? Perché ci sono nuovi nomi che circolano, smentiti, non smentiti, non detti, tutti che si guardano dicendo accidenti, chi sarà il prossimo a cui tocca. Secondo Repubblica ci sono 2 ex ministri sui quali ci sarebbe addirittura un video. Mentre ci sarebbero altre persone, altri politici, almeno 2, coinvolti oltre a VIP. Insomma, voglio andare sul fatto. Luca Telese, Montecitorio, tsunami trans. A chi tocca? Il resoconto di Telese non è male da leggere. Paola Concia, li vedi? Li vedi? Qui da 2 giorni si stanno tutti, diciamolo in modo accademico, cagando sotto dalla paura. Quella notizia che rimbalza dalle cronache come una minaccia. Ci sono i nomi di altri 2 ex ministri implicati in una storia di trans. Giachetti del PD, siamo tutti sputtanati. Passa tra la gente l'idea che in Parlamento ci siano solo sesso, droga, prostituzione. Passa il ministro Giorgia Meloni. Oh, ma qui se uno è banalmente etero, che deve fare? La mia carriera, scherza, è finita. E poi aggiunge, dovrete ammettere che dopo quello che è successo il buon vecchio Silvio e le sue frequentazioni femminili saranno retro, ma ritornano un valore di riferimento. Insomma, si sarebbe impossessato il terrore anche perché ieri Dago Spia alle 18.45 ha messo in rete una lettera anonima che, scrive Telese, fa accapponare la pelle di molti. Caro Dago, La lettera recita: come al solito ci hai preso, al tuo riferimento ai politici di un noto ex grande partito di centrodestra che farebbero meglio a star zitti sul caso Marrazzo, aggiungo una data, 29 aprile 1996. È in quel giorno che un notissimo esponente di quel partito finì in una retata di clienti di travestiti a Roma. Riuscì a salvarsi grazie a lei, non sa chi sono io, e all'indulgenza di troppi giornalisti che da allora sanno tutto ma sono rimasti muti. Beh, insomma, su Libero ormai è diventato tra l'altro un cliché, insomma, il titolo è Trema chiappe d'oro e caccia i clienti VIP. Ormai ci si è declinati su questo livello, tanto che oggi Mario Aiello sul Messaggero dice, scrive un pezzo molto interessante che vi invito a leggere, Eros e Palazzo, lo share si impenna, la qualità crolla. Ormai è un format di sicuro successo, sbatti un po' di sex politics in prima. O seconda serata, gode l'auditel, si impenna lo share, c'è da gioirne in nome della trasparenza democratica? Oppure c'è da malincorirsi per questa politica spettacolo a base di Eros e Palazzo? Ieri un signore come Sergio Zavoli, antico galantuomo, scrive Aiello, ha detto la televisione pubblica smetta di inseguire ascolti occupandosi di temi corrivi. E infatti stasera Anno Zero parla proprio di questo, le Brendone, le Natalì e così via. Voglio andare ad altre segnalazioni, troverete cose molto interessanti, per esempio questa, da Repubblica, la fatica delle donne. Ogni giorno lavorano un'ora più dei maschi. Care donne che siete all'ascolto, ebbene sì, una ricerca ISPO commissionata oggi resa nota da Repubblica. Che succede? Il lavoro domestico, ovviamente, oltre al lavoro che si fa in ufficio, è quello che pesa sul monte ore di lavoro quotidiano. Ebbene, le donne alla fine della carriera avranno sgobbato per 3 anni senza retribuzione, perché questo, secondo questa ricerca, è quanto lavorano in più le donne rispetto agli uomini. Chiudo con la segnalazione della Gazzetta dello Sport. Juve, roba forte, ieri c'è stato il campionato, a Mauri Show, ecco l'anti-Inter, il Genoa batte la Fiorentina, il Parma è quarto e il Milan, ahimè aggiungo io, scappa subito, ma un grande Napoli lo riacciuffa al 93esimo, grande beffa per noi milanisti, ma complimenti al Napoli. Voglio ricordare che ne parleremo di calcio e delle frasi di Fabio Capello, che ha detto il calcio in Italia è in mano agli ultra, ne parleremo tra mezz'ora alle 8:30. è il nostro sondaggio di oggi. Che ne pensate? Davvero secondo voi il calcio è così in mano agli ultra che fanno il bello e il cattivo tempo negli stadi, per cui non vanno più le famiglie, c'è troppa violenza, sono impuniti? Ci sarà anche il presidente della Federcalcio, nostro ospite Abete, alle 8:30. Questo è il nostro tema, dovete votare su radio24.it nella sezione bianco nero che trovate in home page, oppure su ilsole24ore.com, anche qui un po' in basso trovate il sondaggio in home page. Votate, poi ci sentiamo alle 8:30 per il sondaggio, ma ci sentiremo anche alle 8:15 in soldi e dintorni, subito dopo GR24.